L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Darwin. Ciao Chiara. Ciao Federico. State attenti, attente, avete un cane in casa, noi parliamo di ciò. Parliamo dei cani che riconoscono il padrone, noi padroni, anche in fotografia. Oh, sembrerà un risultato scontato, ma la scienza ha detto la sua e lo ha dimostrato. Insieme a noi oggi c'è Paolo Mongilli, intanto benvenuto. Grazie, grazie, un saluto a voi e agli ascoltatori. Lei è docente di fisiologia ed etologia veterinaria all'Università di Padova, coordina anche un laboratorio completamente dedicato allo studio del comportamento del cane che si chiama Dog App, c'è anche il sito www.dogapp.it che è fatto molto bene. Avete dimostrato questa cosa. I nostri amici a quattro zampe, e in particolare i cani, ci riconoscono in fotografia, ma come avete fatto a dimostrarlo? Beh, in realtà l'esperimento che noi abbiamo svolto è stato molto semplice nella sua realizzazione. Noi abbiamo dei cani che partecipano, anzi direi dei proprietari che partecipano volontariamente con i loro cani ai nostri esperimenti. Per questo in particolare i proprietari venivano presso il nostro laboratorio, i cani venivano temporaneamente per breve tempo separati dal proprietario, quindi naturalmente si aumentava in loro la voglia di cercare, no, il proprietario. Noi facevamo nascondere il proprietario dietro a una parete e in questa parete c'erano due finestrelle dove comparivano da una parte la fotografia del volto del proprietario, dall'altra la fotografia del volto di una persona estranea. Al cane che veniva messo di fronte a queste due finestrelle veniva semplicemente data la possibilità di avvicinarsi a una piuttosto che all'altra. Naturalmente avvicinarsi alla finestrella dove c'era rappresentata la fotografia del volto del proprietario per noi significava poter dimostrare che i cani effettivamente erano in grado di riconoscere quest'ultimo a partire appunto da una fotografia del suo volto. Senta, creiamo subito tensione. Quali cani funzionano meglio? Così creiamo separatezze nell'audience. Voi li avete provati un po' tutti? Ah beh, io smonto immediatamente la tensione. Noi non siamo stati discriminatori in questo senso, abbiamo preso cani di qualsiasi razza, di qualsiasi età, però di qualsiasi razza, anche molti meticci, molti incroci, e non possiamo, a partire dai nostri dati, trarre alcuna conclusione specifica su quali siano i cani che hanno la capacità migliore da questo punto di vista. Io avrei pensato ingenuamente che il cane potesse riconoscerci prevalentemente dall'olfatto. Ma questa naturalmente è una cosa che pensiamo e pensano un po' tutti, no? E naturalmente noi sappiamo che i cani hanno un olfatto che è molto, molto più sviluppato del nostro, in grado di riconoscere molti più odori. Questo però automaticamente fa insorgere nelle persone l'idea che utilizzino meno le informazioni visive, però le informazioni visive in realtà sono molto molto più ricche, se vogliamo, di quelle olfattive, ci danno delle informazioni tanto a noi quanto ai cani, più immediate, più facilmente utilizzabili, e quindi nella loro quotidianità i cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto. Peraltro, per fare sì che un cane trovi o sia in grado di identificare qualche tipo di una persona piuttosto che un oggetto utilizzando l'olfatto, normalmente un cane va addestrato in modo specifico per questo, mentre naturalmente l'uso della vista per cercare e identificare una persona piuttosto che altre cose è qualcosa che i cani sviluppano, di cui fanno esperienza quotidianamente. Nell'intelligenza artificiale, quando si devono addestrare gli algoritmi a riconoscere delle immagini, si usano anche, come dire, dei trucchi, nel senso che gli si fa vedere una prima immagine, in questo caso appunto quella del padrone, e poi però lo si trucca un po', gli si mette dei baffi, così, per vedere se c'è un riconoscimento ulteriore. Voi avete intenzione di fare anche questi esperimenti o addirittura li avete già fatti? Il trabocchetto. In parte, in maniera forse più semplice rispetto a quella che hai esemplificato in questo momento, però noi l'abbiamo già fatto, nel senso che c'erano due possibilità nel nostro esperimento. Ad alcuni cani facevamo vedere una fotografia del proprietario in condizioni che noi abbiamo chiamato ottimali, quindi ripreso da davanti, con una illuminazione uniforme e senza particolari alterazioni. In altri casi abbiamo mostrato invece una fotografia con un orientamento del viso non ottimale, insomma che consentisse una peggior visione di alcuni dettagli del viso. Devo dire che in questo caso i cani si sono dimostrati un po' meno bravi nel riconoscere il proprietario, anche se comunque la maggior parte dei cani è riuscita a riconoscere il proprietario anche in questa condizione. Ecco, i vostri risultati ovviamente, oltre a fare grande piacere ai padroni e insomma a noi, credo che siano molto importanti dal punto di vista ovviamente della ricerca, perché gettano luce insomma su quelli che sono i meccanismi cognitivi di visione, come funziona il cervello appunto degli animali. Sicuramente uno degli aspetti interessanti di questo tipo di esperimenti è proprio quello di consentirci di capire quali sono i meccanismi, come fanno gli animali a percepire, come vedono gli animali il mondo in cui loro vivono, che poi nel caso dei cani è anche il mondo in cui viviamo noi, no? Tra l'altro il cane è proprio una specie molto interessante da questo punto di vista, perché avendo convissuto con noi per migliaia di anni ha sviluppato delle capacità di riconoscere alcuni nostri, per esempio il nostro aspetto, come dimostra questa ricerca, ma anche alcune nostre forme di comunicazione, capisce come rispondere a nostre gestualità, e quindi è una specie con caratteristiche uniche per capire come l'evoluzione possa avere impattato sullo sviluppo di queste capacità percettive e cognitive. Va bene, grazie professor Mongillo, davvero un buonissimo lavoro e buona ricerca. Ringrazio voi e naturalmente gli ascoltatori. Ma i bassotti sono piccolissimi, vedevano male da basso. Li han tirati su. Beh, avranno studiato tutto. La scienza lo sai che pensa a tutto. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Noi ci sentiamo presto, ovviamente dal lunedì al venerdì alle 20:50. Ciao Federico. Ciao a tutti. Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.